Yeah, Cima 2009, Dennis sta di studio, strana connessione click contro tutti i pagliacci. La vita ogni momento di fisso me la vivo, non faccio certe cose solo per fare il figo. C'è un motivo che puoi capire, non sono come te, io non voglio apparire là. Considero una cosa un po' penosa, che per far bella figura allarghi ogni cosa. E se ti graffi hai fatto a manate, i soliti pretesti per raccontar cazzate. Ormai sappiamo come siete fatti, chiacchieroni soddisfatti continuano a parlare. Vi piace pensare di essere temuti, ma quando c'è da fare alla fine state muti per paura di patir dolori, con i lì esaltati che si fingono cacciatori. E per questo c'è chi si crede abile, continua a chiacchierare zio perché tanto è facile. E tu dici di capire in fretta discorsi belli o brutti, ma son capaci tutti di far finta di capire annuendo con la testa. Tu dimostrami di non avere torto e fai l'esperto, dici che l'hip hop è morto. Non chiamare mai la tua merda arte, la scena hip hop è morta da quando ne hai preso parte. Lo sai che tu non mi piaci perché siete pagliacci, solo pagliacci ancora pagliacci. Non mi stanco mai di dirlo che siete pagliacci, solo pagliacci ancora pagliacci. Tu di certo stai tranquillo che darti delle botte non è un problema mio. In confronto a voi io non mi sento Dio, ma sta arrivando la tua ora zio, sentiti che Dio. E coi tuoi insulti non mi tocchi, tu stanne convinto, ti pigli a pugni fino a quando sbocchi, in modo che il tuo sbocco sul lavoro sarà dentro un circo. E questo è il tuo andazzo, e se ti prendi male non me ne frega un cazzo. E siete contenti quando ho provocato un danno, non provare a chiederti mai perché lo fanno. Vuol dire stare in ballo, come chiedersi perché i cinesi copiano. È un giallo, misteri delle ultime annate. Vi sentite forti solamente con le vostre pagliacciate. Questa è la tua vita, e poi ti lamenti che la gente ai parti non ti invita. Messaggio recepito oppure inopportuno, se vuoi un invito allora vai a fare in culo. E nessuno stronza alla fine poi la smette, se ascolti questo pezzo ti fischiano le orecchie. A persone troppo misere lo dico per te, chiediti perché pagliacci servono solo a far ridere. Apri gli occhi, stai pronto per la svolta, ma prima di finire vi dissi un'altra volta. Siete pagliacci, solo pagliacci ancora pagliacci. Non mi stanco mai di dirlo che siete pagliacci, solo pagliacci ancora pagliacci. Vaffanculo pagliacci. Oh yeah, Cima MC, strana connessione, avete rotto il cazzo, pagliacci.